24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il caos all'interno dell'Eurozona. Quando mancano poche ore all'inizio del summit, manca ogni traccia di un preaccordo e addirittura i vertici cominciano a diventare due. In Grecia, seconda giornata di manifestazioni con una vittima, mentre l'Europa, dopo la fine di Muammar Gheddafi, chiede una transizione democratica in Libia. Oggi vi parleremo anche delle aziende al femminile, con il record italiano nel vecchio continente, e vi racconteremo di come l'Europa può valorizzare i patrimoni storico-artistici locali. Domina la totale confusione nel vecchio continente a soli due giorni dall'attesissimo vertice di Bruxelles. Un secondo summit avrà luogo entro mercoledì a causa di una mancata intesa preliminare tra Parigi e Berlino. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco. Oggi è atteso alle 14 un vertice dell'Eurogruppo, domani bilaterale Merkel-Sarkozy a Bruxelles. Intanto trapelano alcune indiscrezioni sulle bozze di conclusioni del vertice. In primis l'Unione Europea anticiperà la prima possibile l'entrata in vigore del Fondo Salva Stati permanente previsto per il 2013 e dà mandato ai ministri dell'economia di finalizzare la decisione entro fine novembre. Bruxelles potrà esaminare prima dei parlamenti nazionali le manovre finanziarie dei paesi euro sotto procedura per deficit eccessivo e potrà fare rilievi e proporre modifiche da rendere effettive nel corso dell'anno. Ai paesi sotto la tensione della crisi dei debiti, infine, l'Unione chiede uno sforzo in più per il consolidamento dei conti. Appello al compromesso su decisioni risolute da parte del presidente della Commissione Giuseppe Barroso ai leader europei. L'Europa ha bisogno di compromesso, andremo verso una soluzione positiva solo se si troverà il consenso di tutti i partecipanti, ha detto Barroso. La grande incertezza di ieri si è riflessa anche sui titoli di Stato italiani, il cui differenziale con quelli tedeschi è tornato a esplodere. Lo spread BTP Bund è schizzato a 400 punti base, con rendimento al 6,01% ai massimi dal 5 agosto. Anche le piazze d'affari hanno risentito dell'atmosfera pesante che grava sull'Europa. Le borse hanno chiuso in deciso ribasso, scontando l'incertezza sulla possibilità di un accordo europeo contro la crisi. A Milano il FTSE Euroshare ha perso il 3,06%, il FTSE MIB il 3,78%. A piccole banche, sentiamo. Giornata da dimenticare per Piazza Affari, colpita dalle incertezze sulla capacità dell'Europa di raggiungere un accordo concreto per fronteggiare la crisi del debito. Dimenticando fin dall'avvio l'ottimismo della vigilia, la borsa milanese ha perso il 3,06% sul FTSE Euroshare e il 3,78% sul FTSE MIB. A piccole banche che hanno risentito del nuovo allargamento dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi, salito oltre i 400 punti base. Unicredit ha perso così il 12%, il Monte dei Paschi di Siena l'11,2% e Intesa San Paolo il 9,8%. Si è mossa invece in controtendenza l'ENI, salita dello 0,64%. Gli investitori hanno festeggiato la scoperta di un maxi giacimento di gas naturale in Mozambico. Paolo Paronetto da Radio Cor per Radio 24, Lo Sole 24 Ore. La situazione economica sta peggiorando. Il vertice europeo di domenica e il G20 di novembre sono due summit decisivi per provare a uscire dalla crisi. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, che auspica l'assunzione di decisioni concrete nel corso dei due importanti appuntamenti. Ora andiamo ad Atene. La sesta tranche degli aiuti alla Grecia, pari a 8 miliardi di euro, deve essere sborsata al più presto possibile. La raccomandazione a nome della Troica, Europa, FMI, BCE è contenuta in un documento della Commissione. E per il portavoce dell'FMI non c'è alcun contrasto tra Fondo e Unione Europea sul salvataggio di Atene. Proprio in Grecia una nuova giornata di scontri ieri, nelle ore in cui il Parlamento ellenico ha approvato nuove misure di austerità. Un manifestante è morto. Si tratta di un uomo di 53 anni che sarebbe rimasto coinvolto negli scontri. Il decesso sarebbe dovuto a un infarto. 40 i feriti. Sospendere il rating per i paesi sotto programma di aiuti e ridurre per tutti la dipendenza dalle agenzie di rating. Questa è la proposta che la Commissione presenterà a novembre, secondo quanto ha anticipato il commissario al mercato interno Michel Barnier. E ora l'altra notizia del giorno con la caduta di Muammar Gheddafi. La riferita morte del Rais segna la fine di un'era di dispotismo e repressione della quale il popolo libico ha sofferto troppo a lungo. Così i vertici europei, il presidente della Commissione Barroso e il presidente permanente del Consiglio Van Rompuy in una dichiarazione congiunta. Il CNT deve avviare una riconciliazione su vasta scala che consenta alla Libia una transizione democratica, pacifica e trasparente. Voltiamo ora pagina. Italia sempre più a fondo nella graduatoria stilata dalla Banca Mondiale sulla facilità normativa di condurre un'attività di impresa tra i vari paesi. La penisola cala ulteriormente da una posizione già non esaltante e si ritrova all'87° posto nell'edizione 2012 del rapporto Doing Business. Aziende rosa ora. Secondo l'osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'ufficio studi di Confartigianato, l'Italia ha guadagnato leadership in Europa. Di necessità virtù. In un momento di crisi le imprenditrici non solo resistono, ma si rimboccano. toccano le maniche e fanno guadagnare all'Italia il record europeo del maggior numero di aziende rosa. A rilevarlo è l'osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'ufficio studi di Confartigianato. Nel 2011 in Italia sono attive oltre 1,5 milioni di imprenditrici, lavoratrici autonome. Questa volta superiamo la Germania, al secondo posto, con circa 1,3 milioni imprenditrici. In particolare, le donne alla guida di imprese artigiane sono oltre 368,000. Edgarda Fiorini, presidente delle donne imprenditrici artigiane. I numeri necessariamente aumenteranno perché le donne cercano di creare facendo impresa di un qualcosa che sanno fare. L'imprenditoria femminile pesa sul totale delle donne occupate per il 16,4%, superiore al 10,3% della media dell'area euro. L'humus migliore è in Friuli Venezia Giulia. Il posto dove si vive meglio, e questo mi fa molto piacere dirlo visto che io sono di Udine, è il posto che pare sia più favorevole all'imprenditoria femminile in genere, ma lì è perché troviamo degli interlocutori che hanno una sensibilità maggiore rispetto ad altri. Seguono Emilia Romagna e Umbria. Nella zona nera della classifica regionale finiscono invece Campania, Sicilia e Puglia. Le donne si fanno largo anche in settori tradizionalmente maschili, soprattutto nell'high tech, dove sono il 22,5% del totale. D'altronde negli anni passati abbiamo visto che le più scolarizzate sono le donne, quelle che occupano molto più il tempo facendo formazione personale. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Fiocco rosa all'Eliseo, è nata la figlia di Carla Bruni e del presidente francese Sarkozy. È stato un lungo travaglio, ma finalmente intorno alle 20 di ieri sera la piccola di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy è venuta alla luce alla clinica della Muette a Parigi. Peccato che il presidente francese non abbia potuto assistere al parto. Dopo una fugace visita in clinica la premier dame, che nel pomeriggio aveva già iniziato il travaglio, Sarkozy infatti subito ha dovuto volare a Francoforte, dove doveva incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel. Motivo: la preparazione del vertice di Bruxelles di domenica prossima. Quando Sarkozy è rientrato a Parigi intorno alle 23, la piccola era già nata. L'Eliseo non ha voluto né confermare né smentire la nascita della bambina e ha ribadito che si tratta di un avvenimento privato. E non ci sono neanche conferme sul nome dell'erede Bruni Sarkozy. Secondo indiscrezioni, il nome prescelto sarebbe Dalia, anzi Dalia alla francese. Dopo tre figli maschi, lui e uno lei, entrambi hanno ammesso che una femmina sarebbe stata l'ideale per questa prima nascita nel cuore della presidenza francese dall'inizio della Quinta Repubblica. Ora, tra crisi economica e indice di popolarità al minimo per Sarkozy, ci si interroga se la nascita di questa bambina potrà aiutarlo a riguadagnare punti nella corsa alle elezioni presidenziali francesi del 2012 contro il candidato socialista François Hollande. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prende il via oggi Art Explosion. L'arte si racconta nei campi Flegrei, nei comuni campani di Monte di Procida, Pozzuoli e Bacoli. Musei e siti archeologici diventeranno palcoscenici per eventi culturali e artistici tra antico e moderno. Marco Nereo Rotelli, direttore artistico, al microfono di Paolo Panceri, spiega quale può essere il ruolo dell'Europa nella valorizzazione dei patrimoni locali. Innanzitutto è un dovere che ha l'Europa, perché voglio dire, questo è un patrimonio culturale, un patrimonio umano, è un luogo fisico, ma è un contesto fisico, ma anche un contesto umano importante, che deve essere sentito come un investimento su una sorta di empowerment, su un rafforzamento di identità attraverso la valorizzazione della cultura. E quindi questa intarsia fra contemporanea e storia, archeologia, dà una percezione di esplosione di nuove possibilità. È una sorta di chiamata alle arti invece che alle armi, è una battuta ma è vero, cioè nel senso che io invito poeti, personaggi intellettuali come Monio Vadia, musicisti come De Rico, un grande poeta come Adonis, crea un'interazione col museo archeologico, con le immagini, non so se si rianimerà qualcosa, quello che voglio mettere è il massimo impegno perché una cultura, un rapporto, sia anche in rapporto con l'ambiente e con le persone, in maniera che non sia un qualcosa di staccato, ma mettere in campo luce come possibilità anche di smuovere, emozionando con stupore, la gente comune che solitamente non entrerebbe mai in un museo in pratica. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La settimana di Champions League ha promosso entrambe le squadre di Manchester. Per il City con il Villarreal e lo United a Galati sono state le prime vittorie europee della stagione. Domenica si troveranno di fronte in un derby destinato a definire le ambizioni delle prime due della classe in testa alla classifica di Premier fin dalla prima giornata. Questa è l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.